Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati al primo di una serie di tre appuntamenti natalizi con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Da oggi al 6 gennaio daremo ampio spazio alle migliori testimonianze andate in onda in questi primi mesi di trasmissione. Vi offriremo soprattutto focus tematici per regalarvi preziose dritte e imperdibili consigli, sia che vogliate andare a studiare all'estero, sia che vogliate espatriare per trovare migliori opportunità di impiego. E allora il focus odierno è proprio su studio e formazione. Oltre confine è possibile andare sia giovanissimi per un semestre o un anno di scambio alle scuole superiori, sia una volta raggiunta la maggiore età, per esempio con un programma Erasmus. Dedichiamo dunque questa puntata natalizia ai giovani che scelgono a ragione di investire nella propria formazione in un altro paese. Il futuro è loro, non dimentichiamolo. Il futuro, insomma, è dei giovani globali, quelli con la G maiuscola. Partiamo subito con la testimonianza di Paolo Maresca, 17enne, che ha scelto, pensate, l'India, quale paese dove trascorrere mesi di scuole superiori. Il testimone. Il testimone di questa settimana di Generazione Mobile, siamo andati a scovarlo molto lontano, perché ha fatto una scelta davvero insolita: studiare in India, un anno nel Punjab, a confrontarsi con una cultura e un sistema scolastico decisamente diversi. Buon pomeriggio, Paolo Maresca. Buon pomeriggio. Come sta andando, Paolo? Tutto bene, grazie. Fa un po' caldo, ma bene. Cominciamo dall'inizio. Chi sei? Presentati tu stesso ai nostri ascoltatori. Ciao, sono Paolo. Vivo generalmente a Milano, nel centro di Milano, e ho fatto una scelta difficile di andare a vivere dall'altra parte del mondo. Per il resto vivo una vita felice e calda qua. Fa molto caldo e tra poco ci racconterai meglio. Però Paolo, cosa ti ha spinto a prendere la decisione di candidarti a studiare un anno fuori dall'Italia? Allora, io volevo vivere un'esperienza nuova, completamente differente da quello che vivevo a Milano. Innanzitutto volevo riniziare da zero, dove non conoscevo nessuno, non avevo nessuno con cui confrontarmi che mi potesse aiutare, per vedere se ero all'altezza di fare un'esperienza del genere. E finora si è realizzata una ottima scelta. Allora, tu quando ti sei candidato al bando Intercultura avevi portato avanti varie scelte: Giappone, Argentina, Cina e anche India. Tutti posti molto lontani geograficamente, perché poi alla fine proprio l'India? Allora, l'India è stata una serie fortunata di eventi che mi ha portato l'AFS, la mia associazione, ha deciso di mandarmi lì, perché dopo aver visto i testi, gli esami che avevo fatto con FS, ha visto che il mio inglese era molto buono, hanno detto: perché non vai in India dove avresti anche facilitazione con la lingua? Io ho detto che non avevo problemi e alla fine mi sono trovato in una piccola città, ma con tutte le comodità che mi servivano. La lontananza geografica purtroppo la sentiamo anche nella linea telefonica, ma chiaramente stai parlando dal Punjab. Come ti sei preparato per la partenza, Paolo? È stato un po' difficile lasciare tutto quello che avevo ottenuto, tutta la mia vita, lasciarla per un anno intero, però cioè, devo ringraziare soprattutto amici e famiglia che mi hanno aiutato nel lasciarmi andare, ecco. Preparazione poi per il resto, se dobbiamo parlare di bagagli eccetera, ho portato il necessario. Tu sei approdato a Patiala, città appunto del Punjab. Ce la descrivi? Patiala, allora, io vengo da Milano, del centro di Milano, e Patiala è un paesino di provincia dell'India, nella campagna, quindi è un mondo completamente diverso. Generalmente a Patiala ci sono 200.000 abitanti, c'è una scuola che è una delle migliori dell'India, la mia scuola, c'è tutto, ci sono i negozi, è soltanto molto diversa da quello che noi potremmo immaginare. Quindi un impatto paesino, anche forte per te, è stato un impatto forte? Un impatto fortissimo. Io dopo 3 mesi che sono qua, tuttora ho difficoltà a capire certi aspetti della città e non delle persone. Capitolo scuola, Paolo, come la mettiamo? Quanto è diverso il sistema di istruzione indiano? È completamente diverso, qui non ci sono verifiche e interrogazioni tutti i giorni, ma ci sono le sessioni d'esame, sembra un sistema scolastico molto universitario. La cosa positiva è che i professori si prendono cura degli studenti, vanno in pensione molto prima rispetto alla nostra scuola, vanno in pensione a 55 anni, quindi i professori non li trovi sempre, alla fine ti fanno interessare la materia. È buono, l'unico problema che ho trovato è il fatto che sia tutto in inglese, qualsiasi materia sia in inglese, è un po' più difficile studiare. La differenza tra la vostra precedente vita e quella attuale sarà enorme, avverti nella lettera che hai inviato a Generazione Mobile @radio24.it. Come prepararsi a questa vita così diversa, Paolo? Io sono in boarding school, cioè vivo a scuola dalla mattina alla sera, dal lunedì al venerdì, e il weekend lo passo in famiglia. Il fatto di vivere in boarding è molto utile per consolidare amicizie e scoprirne di nuove. Io passo la mia vita scolastica a scuola, poi vado a fare sport, sempre nella scuola, non esistono associazioni private o altro, e quindi l'unico modo di adattarsi è non essere timidi. Siate sempre voi stessi e cercate di fare tutto quello che può aiutarvi nel consolidare le vostre amicizie, come giocare a calcio, proporre una qualsiasi cosa ai vostri amici. Ci raggiunge ora in linea Daniele Solari, ex borsista che da giovane ha trascorso un anno scolastico a Hong Kong in scambio studentesco, ora vive e lavora negli Stati Uniti ed è qui per fornire consigli pratici ai giovani studenti con gli occhi di chi ha fatto strada dopo la prima esperienza all'estero. Buon pomeriggio, Daniele. Buon pomeriggio. Con te restiamo a Oriente, dall'India, dove studia attualmente Paolo, ci spostiamo in Cina, dove hai trascorso un anno scolastico. Era il 98, per la precisione ti trovavi, lo abbiamo detto, a Hong Kong. Qual è il valore aggiunto, ti chiedo Daniele, di studiare un anno in Estremo Oriente? Io penso che al di là delle specificità del paese di destinazione, l'anno all'estero contribuisca sempre in maniera positiva alla formazione di chi si imbarca in questa avventura. Diciamo che per me personalmente, allora 17enne, proveniente dalla città, da una città di provincia italiana, studiare una realtà come quella di Hong Kong è stata un'esperienza forte che mi ha cambiato la vita. L'Estremo Oriente, come contesto culturale completamente diverso dal nostro, è stata sicuramente una grande sfida che ha comportato, come immagino sia il caso di Paolo, lo stravolgimento delle mie abitudini quotidiane. Ecco, e allora relazioni. Daniele, ti chiedo, sì, quali sono i consigli che ti senti di dare a un giovane studente delle superiori che sta pensando di partire per un anno all'estero? Beh, innanzitutto ci vuole molto coraggio, determinazione, apertura mentale, ma anche, secondo me, molta umiltà e rispetto. Si deve partire dal rifiuto dell'idea che certe culture siano superiori ad altre. Però secondo me bisogna anche partire per un anno con l'idea che non significa andare in vacanza, anzi spesso richiede uno sforzo maggiore proprio perché ci trova ad affrontare delle situazioni nuove e spesso molto impegnative. Quindi ci potrebbero essere dei momenti di nostalgia e di sconforto, anzi ci saranno, ma fanno parte del gioco. Quanto quell'esperienza all'estero a Hong Kong è stata determinante nel plasmare la tua carriera successiva che ti ha portato fin negli Stati Uniti? Beh, è stata l'esperienza più caratterizzante della mia vita, di sicuro, perché mi ha proiettato in una dimensione internazionale da cui sia ormai impossibile tornare indietro. Quindi ho iniziato un viaggio che non è mai finito, di fatto. Si parlerà molto di Cina martedì nel nono rapporto dell'Osservatorio Nazionale su internazionalizzazione delle scuole e mobilità studentesca, e c'è un fatto curioso che tu tieni a sottolineare: la tua conoscenza della cultura cinese ti ha aiutato e ti sta aiutando anche negli Stati Uniti. Come? Sì, esatto, è un'esperienza che di fatto non si esaurisce col rientro in Italia. Ho avuto la fortuna al momento di vivere in una città come New York, che è basata su un melting pot di culture ed etnie, e dove trovo molta Cina. E non parlo solamente di Chinatown e dei ristoranti che frequento perché insomma mi piacciono, ma di vere importanti amicizie cinesi in diversi aspetti, in diversi mondi, dall'arte alla finanza, all'architettura, che mi hanno aiutato sia dal punto professionale che personale. Allora io ringrazio Daniele Solari, e domanda di rito finale per Paolo Maresca: il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero? E per gli studenti esteri, dove voi volete andare, sarete sempre un nuovo studente, quindi la prima cosa è cercate di non avere paura o timidezza. Come diceva benissimo Daniele, dovete essere coraggiosi e voi stessi. Bene, la testimonianza di Paolo Maresca ci traghetta verso la pausa, al termine della quale torniamo immediatamente. Questa volta per portarvi in Erasmus. Vi faremo scoprire una tipologia di borsa Erasmus poco nota e più, che può però rivelarsi molto utile per tutti coloro cui sta un po' stretta la dimensione meramente continentale del più famoso programma comunitario. Le nostre dritte tornano tra poco. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta. Torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Ben